hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Cura a te. Ma come mai? Io non so quello che è passato in giro. Non si è capito il tubo, sei in mezzo al QRM. Ti ha mai detto che non l'ho copiato? Non si copiano. No, non si capisce niente, aggiustati l'antenna. Ha detto, che se ti vuoi accoppiare con lui. Ah, no, mi servono femmine a me. No, non maschietti, pelate. Ah, ecco. Da giù bosco, anda, da sorello, vero lui? E tanto, ma chi su a vè, quel bello della Tedoccia, c'è? E chi è il bello della Tedoccia? Luca Flauto. Già l'ho sentito poco fa, chissà cosa sta facendo. Bello, devi chiamarlo, il bello. No, si chiama Luca Flauto. Belle. Chiamari. Va bene, Luca, bello, devi chiamare, se no ti risponde. Chiamari. Non ci sono. Arrabbiatoci. Ma non ci sono. E dove sei? In Piazza Italia. Si chiama e se ne svegliano. E va. E via per razza. Quindi questa la... A con. Ah, ecco, capito. Assassini, pizzerie, tabacchini e bar. Ce l'ho visto. Però che aprono una cartoleria, magari vari punti. Non so, adesso, una panetteria, Vittore. Ah, già bella si là. Sì. Lavoro non gliene hai fatto tu. No. Chi dove è due Dani, chi dove è Nanni, se anche Rubis. Sì, io si chiama lui. Ci lavora lui. Non credo. C'è il bar, mi sembra proprio top. Bip, se ne hai dubbiare, va. L'hai provato, no? Vai a travagliare. Lillu! Manco, ci travagli tutta la vita, poi va. Nuda, non puoi far nuda. Va. Ma qualche portante c'è. Esce a bimmi un caffè, esce a mangiarmi questo pezzo di colombella che mi sta chiamando, bello me! Sì, io se da ridurre quando chi siamo merenda, ancora non l'hai fatta. Ho messo a fare il caffè, però caldo caldo non me lo vedo, lo lascio raffreddare un po'. Adesso va bene, adesso me lo bevo, va? Vabbè da che io oggi ho lavorato un bel ho sudato, sono tutto pieno di polvere, pieno di tinta, mi devo lavare, da. Con Luca hai lavorato? No, per i fatti miei. Mi è uscito un lavoro, praticamente un lavoro che la mattina non ho fatto niente per avere la sera libera. E come mai non hai portato anche a Luca? Aiutarti. Se non lavoro da 20 euro a Luca mi porto, se gli do 10 euro a lui. E allora, poverino, adesso glielo dico. Lu. Ci viene Lu per 10 euro al giorno con me. Basta che facciamo 9 ore, 10, non di più. No, dalle 8 all'una, dall'una e mezza alle 4 e mezza. Va bene, dai. 10 euro ti do, poi questi 10 euro ti prende da mangiare. Va benissimo. Va bene, allora domani mattina alle 7 e mezza sono da te. Beh, anda. Sempre che avevo tinta la porto io. Sì, ce la fanno un diritto di tinta anche. La porto io. Porta tutti i ferri però, paletta americana, paletta tua. Infatti per stare molto più coraggio Maria. sei andato giù oggi? Ah, non sei andato giù oggi? Lu, ma un raio ti hai falato? E ci mancava! Mi sa di sì, Mangiando stai, pelapè! Che cos'è che stai mangiando? Mangiato la colomba! Buona renda! Ehi, certo. Ma saluti a mangi? E allora non mangi. Ti avevo preso che mangi, se mi devo fare insulina per forza devo mangiare. E ci stai mangiando la colomba, va? C'è già di sei in mezzo. Ehi, a candallotto, torna a mangiare. Ah, così, non riesci a digerirla la colomba. Ehi, a voglia, va? Oh, ancora non l'ha già assaggiato io, piraggio e un paio. Però no, oh. Va già a colomba d'oro, va giù con un barettone, boh. E che si mangi li farò agli atti? Il barattone, il bandolo, poni la buffa a me. Se non te lo mangi, conta dicembre, gennaio, febbraio, basta, sono già 4 mesi, mi si abbelli, magari sono già caduti. Oh, che sono mesi cadi? Ma non ne mangiano, Non ne mangiano. Oh no, meglio nulla, manco colomba, paravà, più là sì. E dagli a Luca, se non ti rimani, balla a passi, se no si guardano. Luca gli ce li mangia, che bocchi d'ossi. A proposito, cosa avrei fatto il regalo oggi, tu figliuri? Luca, che so che tutta la zia rasura solo con un cagnolino. Chi da se città in paese? Ah, casa dell'amica Giulia. A tutti i figari. Chi da è giunta? La travaglia a mangiare dei fariti, è andata a scuola, all'università. Le mogliere si è partita con l'amante e non mi torna più. Allora si risulta. E lì a tua, oggi si rubò stare a cena, a chi lungo di figliolo, a festa del papà. E invece, boh. Ehi, di me si sono ammettati, meno male. Ehi, chissà, stanotte si fosse a vedere che a chi lungo si non cocca la zona, con un cane. Oggi è così, tutta la ritrumita, E a che dormi con te qui saluti? Catta, saluti mi lo fanno tu però, Catta, se non tocca chiamare il pompiere a distaccarti. Mi la bocca a piedi, tipo forse l'acqua calda. Catta, io pensavo che mi stavi arrecato un fiorellino oggi a te. Rosi, invece ho targato nuda, cattesse, e forse saluti, invece a che cosa? Ehi, dalla Ianna! Sarà tracca come te, un aino che addomeni, oh yeah! Sì, ma ancora a ballare sta andando. Ma oggi non c'è andata, è la mia nipote. Aggiungerla a pranciare e a pulire a casa, chissà, è mandrona. E allora cicca cicca e tracca, saluti, niente da fa. Vabbè, c'ha bisogno altri lì, ma non è problema. È capace di dire che cosa mi ci rampa da roba a cuore, meglio non le dico nulla. No, lo sicuro. Oggi mi c'è sempre a me ci sono a cuore. Catta, mi sta attento, Catta, con poccia di me, se no ti fate bricare, o prima o poi. Ehi, fai poco, Beh, è un pericolo quando tracca specialmente. Oh yeah! Meglio non ridi nulla! Ah, in te! E allora vado a macca di lì a che cosa allora? Però, sotto sotto, butto butto, magari è capace che ci scenda. E allora? Allora dimmi, che li mangio? Ah, questi avvara, troppo avvara allora, grazie, vuol dire la si intrattene male allora, A compocciarsi così la si intrattene male. No, chi da me mi da me si intende male, va pure chi si accusa, hai compreso? Tutti i ricusi sono buoni, no? E allora, ti ci dico io? E si muore a chi non sei contenta. Così ti dico io, è la laga bellissima. Vai, vi volevo una bella parola a noi, vi volevo, dai. Cazzo, che chissà che si muore in parte. Si muore, grazie a un'espesa, Emi. Grazie Giuliano! Questa non ti dà! Questo è la casetta! Chiamila Giuliano unito, Luca! Questa volta ti chiamo molla, dai! Io non so che papà, purtroppo non mi tocca nulla! Visto la bacia va a partire un cucciuccio, burundù, armanco uno! Vero Giomari? Tu cucciucci mi vuoi solo, non ti viro lui. Non so come quella rapace inizia a farlo, sì. Se fosse scuola guida io. Allora poi di posizione, problema, dai. Io ti dico come ti devi mettere e poi già faccio e poi tu ripeti con un cucciuccio. ci gioco il maestro della scuola. Non si può fare né calcio né nana, di te, grazie. Né calcio né formaggio. Non guardo la polizia qua, ma... Un calcio a si lo magna. La lana si tappa. A me si mi ha mangiato un pezzo di quello con i buchi, mi. La grubiera. Droghiera? Grubiera, quello con i buchi. E droghiera si chiama, io. Si chiama droghiera. Me la piglio sempre, a me mi piace. Mental. E boh, Luis, che ci mangia a dare tutti. Catta. E mi fai spianata. Catta, è molto molto il suo caso, no? Catta. Laggiù molto del rispetto. Laggiù molto il micone, laggiù... Ma sai come la cazzo? Burro, bianco, bianco, io bombo. Più rimaniamo, più mi piazia. No, io mi ho mangiato un bel pezzo di concorzola con un pane. Buonaretto. E mezza piccantella. E mezzo buone filetti d'acciuga, pezzi di filetti d'acciuga, in mezzo di buone. Dopo mi do una risposta. Un pezzo! I filetti di acciughe! Non c'è niente, con il franco e quello. Ma chi se li mangia ogni tanto? Noi che me... mi piace, ma noi che le mangio spesso. Quando mi sta lo zirro, mi faccio il pezzo rubani. E già me lo mangio. Però lo spesso, ogni tanto. Ehi, chi si sottolio, no? Cazzo. Buona rete, so. Ciao, sono io, sottolio, di quelli nei barattoli. Luca. Ah, te, è flippo da onde andato, poi Parigi, Sarai cubicando, sarai, è sempre vernicenti. Ah, speriamo che faccia la macchina, non manco. Cosa c'è un frescalino? E' attesa il ciuppo, però gli ha attesa la bocca ancora ho entrato in calore ancora. Anche io, l'aria è fredda, è freddo, ma che poi tu la fai pannato. A chi cucina, già c'è caldo, però c'è il buco dell'aspiratore che ogni tanto con una bufata di vento ed è freddo. E mi ha giù buttato in qua, va. No, la mia è a Trecce, va bene. Però qua in cucina c'è il buco dove c'è l'avvento, la notte, l'aspirazione. E quando uno l'attacchi entra l'aria, entra l'aria. Si da poi apre appena appena la gianna, fa così, tira la corrente, si apre la finestra del terrazzo. Ah, ho capito, fa il rumore, Ehi, come ti passa la corrente, l'aria, puzzinosa. Perché poi dalla vetrata, con quel vetro scorribile che c'ha, entra l'aria da quella cavolo di vetrata. Per la mettere le mani in anni, la chiudo in terra e me la posso a bacconi normali, là, a finestra. Perché da lì passa aria, da dove scorre la guida, no? Da in alto e da sotto. Che si guarnigioni che bisogna, non si fino a nulla. Entra sempre l'aria. Quando faccio un bel vento, va... Beh, certo. No, io vabbè, era uno adesso che c'era, era bassa, dai, non stava scaldando. Ho messo a 5 un attimo, poi la passo a 3. Poi si sta bene. Vabbè, fa cosa io, la gianna di cucina ne aveva bugata, però adesso ce l'ho di nuovo, ma in PVC l'ho rimessa perché se no devo stare con la gianna di cucina sarrata, a chi entrava a mezz'aria, a gonfrirsi. E invece così la porta in cucina tenga aperta e già entra il calore. Però quando c'è vento, entra l'aria dal buco dell'aspirazione, capito? Eiaia. Ed io dico, mica un po' di gente se l'ha tappato. E quando fai un po' di vapore, come ti va? Con la ventola della cucina non è che fa forse a zaino. Io quando scolo la pasta nella bambina, fa il vapore, no? Accendo la ventola così ce la risucchia fuori. Se no, se la tagli così, sai perché si va del muro, l'angolo del muro, niente. Infatti, nonostante c'è la ventola, nell'angolino un pochettino si è fatto leva. Adesso a primavera spruzzo quell'antimuffa e l'udigno. Ma una macchietta c'è, capito? Nonostante attacco la ventola. Già fa un po' di muffa, è vero. Lo so. Poi l'umidità anche. Dovete accontare su cosa da capisciuri a voi. Quella è la tromba delle scale. Peggio mai devi la dici, guardate se non tagliate quegli alberi. Chi sul ramo cugi sempre i mattoni, mi parare i mattoni, come ti è successo. E la peggio vorrà un gastramo, e così è successo. Peggio mai. Adesso la domanda l'ho rifatta a venire a rimettere il catrame dei mattoni, a vari in Italia due alberi, no? Pensavate non fa venire un danno, non fate nulla, non hai compreso? Bah, avanti Gio Mari. Io non sono freddo, la palla è già aumentata, avanti un po' a 3. Certo. E a chi c'ha camera non entra. Se non è caldo, se è acceso da macudriuri non entra in occhi. Entra in adito, in tutti e due adito, in cucina, io il peccato. Cazzo, anche in cucina per un tubo e senta a pressione il caldo. Ma in occhi non entra. Magari più tardi entra. Cazzo, ogni tanto sono sufficiente, mi sono cadendo a cagliamo un poco, che mi sono tremendo, la giù un giubbotto, la giubbotta va. No, io la giubbotta l'ho aperto e sto va in cucina. Ma allora, è la figlia di un freddo, vabbè la giubbotta pure i cazzetti, non si sa cazzetti. Ehi, ha detto pure, ma solo anche gli altri da fede. E mi sei lasciato in niente, un freddo, ha detto, boh, ci mi pongo le casse. E beh, di te che mi sei dato una felpa, dici. Tanto vivo. Ci vuole. Ci vuole. No, ma in solito l'assetto verso i 4 e mezzo, io, 4 e mezzo. Però sono andato ad accompagnare mio figliore, un cos'è all'altro, era il zicco, era il zicco e mezzo, quasi di sì, là. Ecco, ancora non hai calcio dove, capito? E calcio andava a poco, poco. E adesso domani ha posto un bicchio, l'ho visto al telegiornale. L'aria niente, ma niente, amico. Domani faccio il tempo fermo, più di oggi. E io mi sono cucato per taluretto. Ha detto, boh, fate la cartina sul telegiornale, la nuvola è niente, con lampe e fulmine, domani è feia. Beh, non l'ha giudicato, per le previsioni io ce l'ho già mai dato. Cioè, e a salvo qua, basta, anzi domani no. Domani, boh, vabbè, no, ma forse domani a mattina. Domani a mattina devi accompagnare Edda, sì, certo. Cosicché, vabbè, già mi dà pure il paese. Mi si poco, la GC mi si poco pure. Io vi laggiù, la cuffietta è il capo vi laggiù, mi ha dato il sciampone, il terrazzo, l'ha dipiccato pure la roba, anzula, l'aria tesa, già è asciutta, e l'ho messa davanti alla stufa un po'. E dunque mi ha dato a base di giunta le vegliura e ha preso la cosa. E che mi doveva aprire, che con che ci prendi non ci vedi, io sono. Ah, io sono mani che corri. Tu, va tu a cada in freddo, a ti cagli lui. Ma lui come te fa, ma cagli stava. Solo attaccato alla ciuffa, ma ti cagli lui. Io ma io sono la surami, no? No, vabbè, già c'è la stufa a solo abbasso, però. Perché... tanto, lavati ci siamo già la volta, la mettiamo a 5 ma non ci facciamo la doccia, la metto a 3, mi vabbè pompe, dimmi. Ma Gitto, tu quando fai freddo ti puoi caldì. Dove che non ci puoi più caldì, tanto tanto, di filo grazia. E allora, tu sei giovincello, c'hai più possibilità di noi, Luca. Mi bari. Giulia, non è così, no. Tu, vieni lì, io ci scaldiamo un pochettino, una mezz'oretta, apri l'orecchio e ti si porre l'orecchio, dopo lì già segue, non ti puoi... tu fai così, avrai a dire che già segue, vero Giovanni? E allora, io fermo un po' di ginnastica, capita, virtuale, capita. Poi all'allenamento, cattaruba, gatta, bisogna fare così, sempre quando fai freddo, da voi, a che voce per i gatti vai caldo, già esci il fresco, ma te sì, no, grazie. Allora, se muore, dici, ti posso vedere il volo dell'angelo, quindi la ricorsa da un corridoio che è lungo, dove fondo la camera da letto, Luca? Sì, già in fondo, sì. Tieni la gialla per te pancata e fai il volo dell'angelo. Avrà a dire che ti cadi, ma come mezz'ora mi voli. Ma tornassimo indietro. E la pigliavo pure in braccio, mi dà tanta la gialla dell'ingresso, ce l'ha così a tanta l'uretto, così. Vabbè, prima erano altri tempi, adesso tempi nuovi. Faccio pure la fotografia, e l'ingresso della gialla, bella no, che bella te. Così fa di grazia. Fammi dammi in braccio. Su, bello. Apriti sesamo. Giomali. Ma tu stavi parlando? Sì. Ma cazzo, non lo sai che c'ha dito veloce. Graziano. Allora. Lo sappiamo. Lui ha sempre un dito veloce. Cacchi di virubetto il suo dito, grumastillo. Non ti ho sentito mica, stavi parlando. Parla adesso, va. Parla adesso tu, parla, che adesso ti senti. Giovanni, devi parlare tu, stavi dicendo qualcosa. Oh, che l'ho detto. Ti metteva la fotografia sulla porta, no? Come apriva, vedeva la porta con la fotografia. Bella be, la pigliava in braccio. E tu, capi, hai sentito cosa ha detto? Ha detto così. E allora? Ehi, facci le fotografie, burro. Manda la fotografia a Luca. Vabbè! Mandami la fotografia, là. Vediamo se è vero. Va, non ve l'ha già portata di mano, ce l'ho in mezzo a... in mezzo al libro. Dove c'ho le foto? Cosa si chiama? Chissà specie di libro manno, il libro nero. Ma l'accusa è... Cazzo, va a fare fotografia, fare fotografie, roba. A figridi. Cosa si chiama quel libro quando ti sposi? Dove ci sono tutte le foto? Figlio Luca, si chiama quel libro. Ho capito, dai. Adesso non mi viene il nome. In pelle, tutta la copertina, gli è poco umano, gli ha pesa poco già. Ce li ho lì attaccate quelle foto. Già l'avevi imparato un poco intanto, al suo ladro di fotografo. Noi stiamo mangiando alla figlio mio, ma 3D si mangiano con ciuccio. Sei venuto un buon bagaggio, Luca. L'album fotografico. L'album fotografico. Chiccio. Ha mangiato per 3 mani e si è voluto un buon bagaglio, date le immagini, bacchi, E il bacco di la massa sta a capo. Buonasera a tutti, figli e brutti. E per lo stesso pagato, grazie, sei da travagliato, si vuole trovare un pagato. Anche tu, se ti fai un travaglio, non ti vuoi pagato. E così è tutti. Ma non mi hanno dato mai a mangiare. Bello bene, chi ci ha mangiato che c'è in gamba, nei 3D. Fammi pagare. E tu le scuole di pinna, lo vedi? Chi su, oramai l'ha contaminato Marino, è diventato non un buffone, non un pipistrello, di chi ti manni, mi? Una cosa reale è diventata. Salvatore, ogni ammazzato era sera, dai sa campagna, si boni, si bosa, ieri, e si rabbaida, a vedere se c'è un baculore, bacchi, e deve essere ancora abusato, bacchi. E si è ancora abusato in campagna, e se c'è la più grande, la messa invece a Caipolo di Dinà. Ancora abusato, bacchi, catta. Ancora già è di mano, per cui... Però si ripiglia la fredda, va, Se no chi si attende il riscaldamento in macchina. E tutta la sera, tutta la sera abusata, per il desira. Si chiama Paculotti. Comunque, buonasera, ma chi ben entrato. Buonasera, Don Marino. Non si inteso oggi, no, Salvatore. Non sei inteso, non sia cosciente che lo interesse dell'elefante. Bisogna di mare, se vi di mare la preferisca faccia. Ma c'era anche Luca, c'era. Buonasera Luca, avanti. Buonasera Bacchi, anche a lei. Ok, tutto bene, tutto bene. Emi qua, relax, facciamo una partita a coso, con il telefono, un gioco. Cercando che sai, ma faccio del tempo, capito? Graziano invece sta giocando con qualche coso, panetto, una colomba. Con la colomba è giocando Graziano, e si riesce a far lavorare. Ehi! Non la fa di volare che se la mangia in presa, hai capito? Ehi, una solo va rimasta! Bacchi! Quasi magnata, E là rilassate, mirai, Graziano. Una ne è rimasta, ma è a costa beffo l'uvizza. A cena, da poi cena, me la mangio, me la piccoliteggio, da. Piccoliteggio, piccoliteggio. Capito, insomma, lì, piccoliteggio, Emmi. Ma chi sono i piccoliteggi? Ogni tanto è ciappa la cusa. Devo fare, cioè, però è a piccolità, capito? E infatti di qui, ma come te fate a rimita allora le mangiare chi te lo mangia? A fai da sole e basta. Ma se la mangia poi non vola. Per forza chi se la mangia? Sì, come si fa da vola che a colomba ce l'hai tagliato gli allari? Così è bello bene. E allora? Così è. Aspetta, riprendi tu Luca. Aspetta, andare a bucanire Roberto alla strada della colomba. Va, il piri. Capito? Va, il piri, così è grazia. Ho tirato un po' di avama. A bocca piena non fa vita, capito? Bacchi. Va, fa la bocca piena. Piccoli tendi, piccoli tendi, va, fa vita, grazia. Eia, aspetta che se lo mi strozzo. Dica, Gian Marini, c'è la bocca chiusa. Hai sentito, grazie a me, se mi noghi noi. Ho detto si muovivo, non potevo andare lungo. Cammina a mangiarti in ciaffetta di colomba. Ah, colomba, l'aria, non mangiata, va. E dopo si mangia i piedi. Si rossicheggia. Grazie, ripeti, rossicheggia per i sì. Già mangiati, dici? E allora mi lascio mangiati. Ma? No, ci ho mangiato per rimasto più nuda. L'aria si l'ha mangiati, ripeti, si l'ha mangiati. La cosa mi sarà. Fare un baffetto pieno. E la cosa, grazie, mangiato ti dai. Mangiate di girita la strada. Paoletta era! Un capo si è mangiato Paoletta, si è mangiato i piedi e la gola. E allora? Dice a vedere, mi pare che ti sono accessori. Ah, la formacella si è mangiato oggi, buro. Ah, se lo mangiare devi ingrassare, grattiamo il marito. Devi pure un poco di biso. Avanti lui. E già là un biso. E già ho un biso, ma devi pure ancora biso sopra, insomma lì, non si è. Da che chilette ho pescato ancora. Si continua così, già aumenta il biso, capito? Va sempre un sacchetto pieno. Però, fatti, i carrichende e carrichende, e tu fatti così. Ah, capito, autotrasporti, E se no si può aumentare il peso, la vedo anch'io un peso. E dopo un poco di cipiombe da 200 grammi, si infila un pestolino e si vuole in tutto. E te ne fa un po' giuroni, a dopo è la nicheggia. No, nelle date che si piombano, che si non ammazza tutti i corracci, chi passa di chi va a casa sua. No, da lì li piombano. Il corraccio si rimagna, i pietri catturati, il corraccio appunto la rete a posto. Allora, è sempre, sempre quella gabbina puntata che sta, passa da luna e a terra. E poi c'è da sai il pirilla, tu quasi presa il pirilla, Ma sempre le vagate pronta, da buon ammoglio e l'hai pirilla subito. E poi se le pirilla in casa, vado prima. E E allora pongo tre sul casale con le bambini e la impiro subito, la impiro. Dice ruglia ruglia. Infatti. Però ma non ne si gutta io. Fare un po' le hamburghese, Mari. Mi sai, Giovanni, che non siamo quasi rifiniti ancora. Da pare che si abbia fatto dei cosi, Dai, maestra, tu vedi. Mattino, Maria, quando sei finita, Riagino, se sei finita, ed era apparsa in alto, ma la cantina madura, un tacchino, Maria. E come te l'hai fatta? No, si l'hanno mangiata a stessa di curraccio. A carne suia, te la mangiami. No, a te la danno. Ma quando ne la papo che curomba, ne mi dico un raggio. In giro di un quarto d'ora non ve la venuta, solo che cacche più, ma svola assente. Ah, ma non sabbia. Poi no, che ha da reddo, ogni tanto ammazzare anche i piccioni. Mi sono ricorracci. Mi sono pure le cose, i gabbiani, approvati noi, però non li tocca niente, non li tocca niente. A vedersi i nocchi si mangiano i tradietti, si affarrano, e se no quando vi sono i gabbiani, li devi vedere, e i gabbiani sono maturi, e però pigliano i colpi dai gabbiani. Catta, se io mi faccio a dedino, ma ad aprire la come si chiama la vetrata subito ripeti si pone sopra un faro darsi no ai settenti si rampiamo a mangiare due vi riso come ti apri ricosi subito so appiccati ma capevo prima non li vedia il logo boh. E sono rimuriti, so, perché ti vedi, ma anzi, non sanno i gatti, ho intendito i rumori, e subito correre a vedersi di lampi a che cosa. E così facili da me, quando apro la vetrata, le vedi, boom, si muoiono tutti in fila, in alto al muro, di tutta la razza, adesso hai visto un poco di male, Capito, ma chi? E forse si fa la nichilica a chi lampiamo sempre a mangiare noi. Pane, pezzi di cose, di tutto, pezzi di calcio, di tutto, lampari, non noi solo. No. E allora va, sono abituati, ho mettete a per rumore, subito ti currini e stai zitta, ti dentani. Per chi faccia pulire un pezzoletto con un faccio d'uomo minorenti e raccattoreggio. E se ne fai, che ma come mangiare un puccica, un savolaccio ami. Ma che sono buona che mangiare di tutto, cadavere, di tutto ciò che fai mangiare. Sì, pure cadavere, capi, piccoli tenderi. Tutto si mangiare. Allora, vedi, una colomba, che va via una la facciata. E si è ammacciata dal bascone e io speriamo che non si veda, se no si va nella brinca. Ed è rimasto un paio di dire, gli dà papo un pezzo di bani, uno pure una ciotola con leva, la giubbotta, la zia mangiava e bizia. Poi un mazzano andò a baita, allora si è rimasta un'ala. Ci l'ha rimagnata. Poveretta, che l'ha fatto la fine. Ma viva mia traccia dura, che sul capo dei curracci. E ci pare di morte di fame, pare. Che sono morte di fame, andai allora, che sono morte di fame. Invece la curraccia non vanno, la cosa, un gabbiano non vanno, dai sono pesce. Cosa, mica stella, quando qualche volta l'ampo rubano lo terrazzo. Li vedi di gabbiani, il parente, tu gabbiano canta in me. sì, mi la paese, ma paese lì, piglia il male se si fuggi. Sì, sì, mi hai paura, allora, che cosa è, che regge le pascine? Ma, grandi mie, è enorme, mi ha messo di gabbiano. E per un lampo farano i curratti e vedi. Ma se faranno niente i curratti non vi faranno, se si fuggi. Tu con la carabina dalle un poco di piombo. Ehi, abbracciate per la buccia, canto una giugana, però mi sono che stufato. Ehi, no, non si deve stufare. Io nella mia c'è la mulla, ci posso a punire la mulla. E so che domani ando, detto domani ando, e adesso quanti curracci mi sono in campagna, a tiro ti vai nemico. Non te ci perdete, ti fai il brudino. E te la cambi tu la mulla, te la compri lì al corso. Se no tramite internet te la ordini e ti arrivi a casa. Ma che io sapevo a ciambare la mulla? Ma è una cazzata, Ehi, una cazzata è un coso, un attrezzo che mantenga la mulla in tensione, un po' di stira, capito? Ma ti bisogna farla cantare. Ciao, sono di tre fasi, Pasquale, il marito, il cazzatore di una campagna, e ci porta la Pasquale, già troppo Pasquale. Anche quello che c'è al corso te la fa. Ma cosa, li buoni un morsetto di mattulaccia non vi lasci. Li butti lì su, molli il perno e molli piano piano il morsetto. E piano piano un labbro. E poi una volta che non è carica, non è che ci abbia tutta questa carica la molla. Ma... Non è fusta quando è carica, dove c'è... Normale, no? Deve essere mezzo tirata. Non lo so, non ci mai avvista, grazie, non so comunque come ti sia fatta. Se no la mantieni con una mano, ti la appoggia a pittorra e la appoggia alla banca. E la appoggia alla banca. Servivo un altro per levarne il pernino col punzone. C'è un pernino, c'è. Punti il punzone, gli dà un colpetto. Poi pigli la pinza il pulzone e poi la sollevi piano piano e ne esci giù. Non è che faccia tutta questa voce in sudano, una volta che scarica la molla. Piacela un po', non è che faccia questa carica forte, no? E già ce la fai, basta che non fai i pezzi. Chi è più importante, non prendi i pezzi, che se prendi i pezzi hai perso tutto. Se no Antonio Campella dice bene che un paio di nuova. E tu vai lì al corso, glielo dici, e non è che me la cambia la molla la carabina, seguo la carabina, t'avrà pigliato 20 euro di mano d'opera e più paghi la molla, e boom, però te la ingrassa e tutto. Che ingrassa è, Dio, via? Era già buttata la famosa che l'aveva bruciata ed era starata, l'avevamo portata fuori il tiro. Se proseguivi, altri dicevano, vedi che è giusta, poi forse a un metro, a uno di fai versagli a un metro, via. Ma quale di lontano che prendi la direzione? Un buio che zucca. È un buon buio, non è un armiere. Corri me le bozze io quando mi la chiedi qua, basta che ti liberi il tavolo, ci appoggi un cartone, io ci appoggio, pongo un barattolino e ci metto tutte le viti, le cose che ne mollo, guardo com'è te fosse. E poi... infatti bisogna avere occhio ci vuole. Oh yeah, avanti sono lì. Però male non faccio problema io di questi cosi, è una cosa che era mai piaciuta a me, mai. Guarda, proprio questi cosi a me non mi è mai piaciuta, boh. Chissà perché, una volta si fa una cosa a Franco California, campagna. a chi era attaccato un coso, un dipolo, e tu fa la carabina a vanno. Atta fa un secchio della puntanella, un secchio maddo, atta pensati quasi un coso e mezzo di pagata. Atta cosa ha fatto io, la fai le cose, mi sono capisato, ha buccato tutto lo pitone, mi ha buccato. Ah, tu vai, tu batti le mani, stavate per un colpo regino, un caso ma ti pare che devi fare che tu dai, ah, tu mi hai fatto un danno, non finiva più, ah, tu da oggi tu non mi fare più in campagna, era per fare un più, Io mi do un avversario che ho pigliato, No, è un divertimento, non sai cosa fare, vedi che corraccia, che marasucchi, e sai che devi fare la fura. Tanti venivano le due, da che venivano a Manzano a Magnani, ne arrivano 30, 40, 50 corracci, tutti lo piazzare se vuole. Il vicino di campagna mio non farò panna ai cani e i corracci metti un bucciale. E i cani non li mangiano. A me pure mi dicevo bene, io pure poco non mangiare a riatti. E cazzo fa più i cani, e io pure cazzo, cazzo, oh, faraggio così. Questa carabina dice che la voglia provare e a te non si è posto tutto lo pitone mi hai fasciato mi pare ha pigliato 25 euro 25 mila franchi su questo secco catta tutto mi l'ha buccato ma guarda un po' a razza e cristiano beh cazzo di te di vino ma ha buccato per questo secco a Gio Maria e a me cosa ti dici. Sì, lo sai, lo piombo lo stampa, poi arrivi per un caso quando arrivi, dunque se è plastica è la stampa vecchia. Così è grazia. Sì, ma quella sono quella a gas, grazia, quella è a gas. Quando è a gas, cosa fai? 5-6 colpi, poi cominci a perdere. Poi manco da un naso fai a Versaglia, che non va potenza più. Come esce il pallino cade in terra. La lepra di carta della moglie sotto la canna, sotto la canna. La lepra, così che ha detto, è a passi, invece abbassa la canna, abbassa questa lepra. Poi sei tutta lepra. E intanto c'è il poggia guancia, a Firenze, qua da tre c'è a Firenze, si mattina andava a vedere, non abbasserà l'altro. E cara, c'è cosa sai, un po' di mattina, che bella, bella mattina è. Forse poi ti abili il pane schiavo, quello che voglio la fare. Bisogna vedere che se il diametro, quello che è il diametro 6, poi se ho depotenziata, perché non lo puoi, se è una carabina normale, non la puoi detenere, deve essere una cabina depotenziata, quella che c'hanno il forellino nello stantuffo. Porto d'arma, Graziano, non la puoi detenere, capito? Perché se te la trovo altro sequestro, no? Capito, hai Gian Marino, compratela anche tu la carabina. No, staranno. No, sinceramente, no, non mi è piaciuta. Mai mi sono piaciuti là, il mio, mai. Cazzo, il mio fratello aveva un fucile, calibro 16, aveva. Mi ne puoi andare, no, quando è morto, la sua fratella dice, passate in sera tu, e io, non li vogliono. La mia, la moce mia e l'almi, non mi sono mai piaciuti io. Per cui lo preferisco a mano, a pugni da forse io. Si sarà molto fa. Ma che ci cose, no, non mi sono mai piaciuti i bacchi. Io non ce l'ho così, per gusto, capito? E certe volte anche per vedere la capacità e cosa varia. Anche il sottolarmi era il numero uno sulla carabina, capito? E tuttora non mi si fugge sotto un naso. Chi fa la passione? Io non sono stato mai appassionato a dire per il dare, per cui va giudici a mi conosco, però no. È cercato di convincimi, ha detto no, assolutamente no. Niente di queste cose, non li voglio nulla, no? Per cui prendetevi voi ma chi? Che meglio, già faccio un appetto io, campagna, con un morto coltivatore oppure con un cespugliatore. Vabbè, ma tutta un'altra cosa. E ne avevo una Winchester che mi aveva data Giampaolo, dicevo via lo Baracchino, che azia in corso, in via Giovanni Pascoli, all'angolo via Grazia dell'Ezza, in campo di un Baracchino. Solo che io visto non potevo venire, l'ha giocata a me compare, e dove ho portato dell'arma. Ma mi ha dato in cambio di un baracchino perché mi ha dato. Se vi vuoi al bolso d'arma che ha preso, no. Certo. Questa è una baraula. Una baraula. L'abbia visto una cosa da Franco. Franco per la mia bella, infatti la dice ma da Pasquale, mi sembra che era già abbinato a Pasquale, perché era mai denti, era combinenti e la musica si era pigliata e me l'ha fatta vedere in casa sua, non so se vi l'aggia ancora oppure no, ma bella è, veramente bella, Maria professionale, cazzo. Non si fa i verdi, no? Perché siamo andati a San Paolo, era formidabile, il grilletto d'oro era. Però l'accato di Noro, no, noi era dallo giusto. In cambio di un baracchino, era di Rubappo, Rubappo era molto e se ne ha spese le armi che aveva in casa. E le ha dei usi per pochi centesimi di zia. Ma vi fate conto di un baracchino, non so cosa aveva dato un toccaio o cosa aveva dato, allora il superiore era il 23 canali, non vi lascio. Un momento si è giocato. E dopo di non c'è più piccolo, so cosa se vivo ancora sia molto. Sto bello qui. E ci ha detto a mangiare la colomba. Oh, è venuta gente, già rientro subito. Scusa, vai, bacchi. Ci ha detto a mangiare, va. La colomba, va, subito ha mangiato gli aripidi, ha mangiato l'ali, ha mangiato un capo, ha mangiato la colomba e sono un torace. Allora devi esplorare cosa avete 30 autoracce, cosa avete rimasto. Luca! Io mi sto ascoltando, carabine. A me mi piace, però cosa mi fai? No. Non roba a me, se mi dici baracchino va bene. Forse va il puzzo. A me mi piace venire i baracchini, ma che si cose, no? Ma non mi sono mai piaciuti, sinceramente. Non c'ho passione, però chi c'ha la passione fa quelle altro, vai, così è bacchi. Infatti, tu devi pensare, dovevo prendere il porto d'armi tanti anni fa. Avevo preparato tanti documenti e c'era un amico lì che quando facevo l'esame ti diceva a me, ti pongo a donarti un pizzo, una cosa. Un merlo mi metteva un altro uccello, non so cosa era, ma roba facile. Tu entri lì, quando ti chiedi, dice questo e questo, che sei che dà, se ti esci. E sono andato con un amico di mio compare, ed è entrato, io sono italiano, e ho detto, ma va a fare Napoli, non mi dicevi, posso dare, ma se dopo mi attaccavo di pigliare qualcosa più grossa. Lascia perdere, faccio i documenti ancora pronti. Faccio un amico che ha appassionato di cazzo, Cata. È un appassionato accanito proprio. Non va, dai, che anda appena libero da chi non travaglia, subito la fusina e pace. Ed è sempre così, ma troppo appassionato, Catta, mai da vedere, era appassionato, come sta bene, come ti riparo a chi, io, dai, la fusina, Catta, mi piace riparo a chi, boh, ecco. Anche se non li uso, mi piace a fare, me le guardo, boh. C'è quello che è appassionato, io sono. Per me compare, boh, un'armeria in casa sua, venne a poco di fusili, di pittori, di moni, di tutti i cari del calizzai. Veniva un sacramento, è appassionato, per caso di pelucidenti, ingrassenti, vendi. Hai detto, a chi non vuoi altro che fa, se no è meglio lasciare una pace dei fusili, dei pittori. Ando per la passione che dà ragione. È così, come te tutti, quasi cade appassionato delle cose. Io come te prima era appassionato alla girepresa, le prime girepresa a batteria che si usava le gatta, ma donna gatta. E giravano un gabbo io. E ancora faccio tutte le pellicole ancora vaggi. Una cascetta mi naggio. Ma poi mangio un biglietto una passione delle cose di fare il cinema, la macchina, una Super 8. Ma poi mangio una 16 mm, che si mi manni. E pigliava i film dalle suore, che mi fia Calaberto, alla colizia delle V5 del Baldi, se te la metti. Cazzo, sempre bello ci penso un poco di raga, perché è la passione, ma dice altro, capito? Sì, io ho la passione delle macchine fotografiche, fotografia anche la dritta, ne ho 3 o 4 macchine fotografiche, solo ne sono più trattenti, ci saranno poi arruinanti, degli obiettivi, delle limoni, dei filtri, filtrini, tutto questo va, cioè, le dinanzi non parlano, finiva più. Poi sono passato dalla fotografia alla telecamera. Quando sono usciti i primi telecamere, cosa era questo? Poi dicevo che i nastri manni, che l'abbiamo pigliata io e la buona nei Torelai. Ne abbiamo pigliato lui, l'abbiamo comprato i primi crescenti da Antonio Scarpa sopra a Capuzzini. Torelai l'aveva venduto la prima che aveva abbigliato io, la girepresa, tutta questa nicchialata in argento, bianca, però l'aveva venduta io a Torelai una, non so se si dà pizza a Zubis, sì, è un burro, ma c'è un burro delle telecamere, cazzo, non c'è un treno, e ne ho una professionale, e un'aggiunta la VHS stereo della Nordmende, catta, Super 8, catta, e manna, catta, poi per forza è un conto, ma poter filmare questa cosa, ti puoi immaginare, tutta l'attrezzatura, aveva la borsa quando andava in gitta, aveva sempre che c'è borsa a conto, e poco bisava chi, vera carica batteria, nasceri, di tutto vera, capito? Da voi bisogna che c'è casa di chissà, chi l'ha già ancora, e non che la nordamente, quello è professionale. Infatti da Luca la volta poi su eBay e la vendivo si ha sempre mai vendita. Evidentemente noi. Nuova roba. È costolante ora che ora. Ma poi ha giubilato a Zurich, che era minoretta, chi la pensava troppo. Mi ha giubilato una di Sassunic che è a colori, attrice bella, è grazie a tanto mi fila giroghe, macchine fotografiche nati delle 4. Per dire no, è appassionata di chi si gode, però a lei ma a me non è mai piaciuta, ma chi? Sì, vabbè, perché sicuro è una passione, No, ma è che la motivazione è a colori. È a colori. La messa a fuoco automatica, tutta la professionale, chiede che va via Antonio Costanza quando andava a fare i riprese di rifilmati. Era uguale identica chissà che avevo pigliato Contore. In questo periodo che l'avevo comprata Contore ha pagato 3 milioni l'una. Stato ordemente a Gibraltar, da Manconi abbiamo abbigliata io. E un cappato di Petranietta. 3 milioni e 600 mila franchi, certo. È dura, oh, ma che è troppo pesante, pare che sì, ma è troppo pesante. Poi c'ha tutto, tutto c'ha, è completo, è professionale, devo immaginare. Mentre invece la Sassoli che è più minore, però se pigliavano un astro a colori, ti facevano i filmati a colori, la nordemente, quella che era bianco e nero, no. Però bastava pigliare, da poi si uscite in astro a colori, e per cui le attività a colori, pure quando la buglia era attaccata alla televisione, capito? E per cui invece chi c'ha Sassoli, che chi sa è... La stessa giù trattata, che mi sembra 3 o 4 voci, a quadretta la borsa, con tutta la trattatura, da poi la giurata a Philips, spazio pure a Philips, tipo me, trennaggio. Però la Philips, che sa, pulita, che ha già provato, a che ogni tanto le ricapoli possono funzionare. E chissà la Philips se non funzionava, pure ha pulito sta canta. Mentre invece normalmente io 4-5 mesi le ricavo l'attacco e mi posso camminare un po', capito? E le batterie sono buone, mi. Ma c'ho 4 batterie, puoi immaginare. Aveva bisogno sempre le batterie del ricambio la mia, quando c'è in città. E così a qui a chissà Sassoli, ma te se ne ha 4, c'è buono. Sono attrezzi vecchi, oggi si sì, ricavo e registro, nastri, non li vendi più, però se ne vuoi bisogno in internet, sui beni alla ciappi, capito i nastri, e una quindicina, oppure magari fa così, nasce un bel nastri a carro, che no, basta pigliare il CD e rubare il CD. E che si nasce le biodi e le puoi utilizzare, capito? E così fa zio, oppure puoi rinascere i manni, VHS, e nasce si nasce, la palaggio un 200. E chi si è chiamato VHS e nasce un sacramento, che usavo i sinastri? No, quando mi serviva mi cancellava, non voglio nasce, mi cancellava qualche cosa che non mi interessava e usava questo. Solo che le batterie si sono andate in una male, sono con mezzo tempo che non la so potrà tenere, non la so più manco che avete niente la borsa. Ma non so manco come sia. Si è stata con carica batterie e funzionava, la trattava così, con carica batterie che non vi in casa. Solo che penso che la batteria non si lascia fare né più qui, di questo tipo, su internet magari sì. E era i tasci chissà che va via io, che vi facevo. E una ai tasci. Chissà se fa te, compare già di raddù. Compare già di raddù, chissà, no, a noi non si riserve, grazie. Allora, Marchi, fa il 3-4 e mezzo, la spesa 7,5, peso 3,2, lunghezza totale 104, lunghezza canna 42 cm, canna piatta, mirini regolabili, circa 11 mm, la slitta è aperta in canocchiale, calca anatomi con legno, sicura manuale, costa 490 e le spegne senza capito, no, adesso no grazie, non faccio dell'anno. Adesso questo periodo sto pensando alla macchina. Era 8 anni non c'è un papà, rifilti roba varia. La catena di distribuzione, dunque sto spendendo quattrini con la macchina. Ma chi te lo fa fare, Bacchi? Attore mi! Attore ci se la fa la campagna da mai da anzi! C'ha 50.000 chilometri, è nuova! Ma che ti ruba zippa? La campagna! Io. Ma mi sembra che ci dice a Tole, Tole! Ehi, dimmi, dimmi! Sei vivo, buonasera a te! Ciao, che mi sono sbagliato, hai subito imparato a voce di Tole! Cata, vi stavo ascoltando dal lunedì sole! Ho provato ad entrarvi, ma che manco va arrivia a voi! Però vi intendia! Ah, capito, hai! Siamo lì, Tole non lasciavamo entrare, se l'hai una serrata, mira! Ehi, già facciamo i passaggi troppo lunghi, Che non li dobbiamo fare i passaggi molto lunghi, bisogna anche asserirci alle regole per essere una cosa più perfetta. E siamo troppo esagerati, e ci volte che quando avremo un microfono in mano dimentichiamo di lasciarlo. E purtroppo certi discorsi viene a creare discorso troppo lungo, e allora quello magari aspetta che c'è un po', se c'è un po' di bianco, e magari invece parla, però no, ci arriva perché lo sopravviviamo. Così è tu. Ah, infatti, ma ci ho provato, ma non andava. Ma e poi no, deve essere che non arrivavo a voi. Già che vi sentivo in mezzo al QRM. Pensa un poco, se riuscì a entrarvi. Graziano Emmi, che era sempre pavidenti. Pietro, non volava mai il microfono, e ti fino un bacchino, è così. Graziano è sempre pavidenti, che carabina, grazie. Sempre c'è carabina, Sempre carabinando sta. Allora, a prima mi ha di lavoratore, ciao. A volte a pensare che non li può più mia, vai giù in là. Ho sballato ancora e raccato la nuova luce, mi pare che me la uccinessi, troppo bella Tore, ti interessa essere che ti compri la campagna? Se mi ricevo 20 euro. No, guarda, c'ho quasi tutta demontata e denunziata una cosa, una doppietta. Pensa un po' se mi interessa di guida. Ma la doppietta fa dei rumori, chi c'ha è a mulla, una carabina, silenziosa, rumore non ne fanno. Ma cosa c'è, devo andare a fare a lampanerie, ricurrarci, ma che se la prendano in quel paese le cornacchie, catta, se no dopo mi tocca farmi la brutto. Le cornacchie ci sono da Battiglio, se sei vicino a Battiglio, almeno fa piacere a Battiglio, vero Bacchi? Ma ho Bacchino, sì che da poi le bacia anche Tio, e sono pericolosi questi cosi. Bacchi, caduto sì, È stato risposto, ti ho detto, prendi Tole, mi ammazza di curarci, se è riuscito a mangiare la brava. Visto tu lo fai appostare lì dentro la serra, fai un buco in un aino, Tore. Eia, no, grazie, ma già andà a far fuori il gurracci io sono per la pace, sono, cata, ma pensa un poco, che tutto si rabbiglio. Poi nei valori gani, pensa un po' che io vi pensa niente da voi. Poi qualche leprotto lì a c'è, ma sì, ogni tanto già se mi vado bene. Una volta vera, che avevano venuto, vera il coniglio una volta. C'erano i cazzatori che passavano in fuori della rete, si è buttato pure la rete. La bella da finire, tutto cane mangiato, duro di coniglio, in campagna Roma stessa. Mi ha detto quando parlavo mi pigliavo qualche lungo. Manco l'ombra venne, sono i cittadini come c'erano i punti. Sì, i cacciatori ammazzano i manni minori, tutti qui, capito? Avanti Gianmarino. Già è successo, un manzano si è comprato un ghiccio a campagna, 2 anni fa, ma 2 o 3 anni fa. Cazzo, è ancora buio. Cazzo, pare di chi vi, da poi la dice San Camillo. canta per la chiesa. Ah, va, non so, se era lepra o se era coniglio. Canta, mi fermo con la macchina. Era sempre fermo, andava a pizzino, andava a pigliare, mi fuggiva, andava a fermarsi, andava sciocciando, ha fatto quasi un chilometro e mezzo a piedi, non sono riuscito a pigliarlo, anche se ho parato in un canale, ma poco mi trovo un gusto, ma piglia che tu, chi sarebbe proprio un coniglio che era, ma chi? Fatto, è così, così. Ma uno ha pigliato una volta e non ha potuto andare a travagliare. Adesso ho pigliato in piedi con la macchina. Mi sono fatto una certa cosa che ci posso pagare. Io a casa, la sera abbiamo incogliato. In campagna non l'ho pigliato mai nessuno. Come si avvicinavi, fuggivano. E poi mi sono ricassato loro e passavano io per la domenica. Tutto faceva di fuga. Non è lasciato nulla. Ehi, va. Ah, va, non per di solito, poi la creare, hanno eliminato i cazzatori. Tutti sono cazzatori. Ah, ma uno che è in campagna fa sempre i fusili e magari si appenta in campagna, pure se va a Portugal, ma capito? Si appenta in campagna. E questi che non finisco più, no, solo con razzi e ho con i marini viso e basta. Un razzi a vedere mia lunga. Avanti, grazie. Ehi, vabbè, allora mi sta vedendo un attimo. E così, avanti, si auto, riprenda lei. Ciò che abbiamo combinato oggi, si auto. Finita che ero andando a Turrendi oggi come figliura, se l'hai facciata la macchina mi è toccato accompagnarla e devo andare a Turrendi tutta la di. Sono rientrato poco fa, sono rientrato. Ah no, stai facendo il vagabondo oggi. E allora, il vagabondo. E domani mi tocca fare torre il vagabondo. E ci c'è l'arriera, burro, andare a pigliare chi d'altra. Ma chissà che anche lì non mi lasciano in pazzi. Cosa vuoi fare? Bisogna accontentare il mio costruttore. Certo, altro che... Uiuia. Bubu. Ah, oggi ho chiamato quello là e mi ha mandato un email con tutti i numeri. Oggi ha fatto il papà, mi ha mandato pure email. E non sei contento? Oggi hai mangiato da quattro canasci, allora. Certo, a voglia. Grazie a chi ti sta mangiando i pesi da colomba puro. E Graziano, si deve darsi immugiato. Qua, vanno in scusa. Vabbè, tanto non è più comprare. Domani ci guardo, là, ci guardo più bene. Senti, ma non sai neanche a darle se gosi. Certo, io sono per la pace, non sono per la guerra. Oh, nati due. La guerra! Piglia sul terzo, piglia sul terzo, grazie a Romacco, da voi, ti io, che ha stessi ribocciati chi dà? Carta, da ti lascia ribocciati, si ribocciati chi dà da voi? Certo, vicino non ci gustano grazie, vicino dove volano puro, questo è lontano, almeno 25 metri, 20-25 metri, così è bello fare il bersaglio, no a 15 metri, 10 metri, oppure a 4 metri. Ehi, a 7 metri puro arrivi, e come che arrivi, la puta non è come se la grippa, o se no il barattolo... dell'olio ho messo quello nella mia da parte in parte l'ha stampato ed era ben lontano io ho fatto in passi a 10 no ogni 10 passi sono 10 metri forse il passo un po' più appena più lungo è un metro no io vado a Vignato, in terra c'è una fiscia di lamiera inchiodata, dove va messo il bersaglio, c'è un altro pezzo di lamiera rossa, mentre verruccia, i chivi, tutta la ruccia. E poi c'è il bersaglio che c'è, il finestrino, il centro c'è il finestrino, quando tu lo becchi si curica. E se non lo becchi non si tocca, se fai il bersaglio si fa il buco, si curica il finestrino. Io c'ho i cartoncini segnati, no, si segna dal centro e va allargando, si segna tutto così, metto il cartellino attaccato al varato, avvesso il centro e stampa il cartellino e il varato, e poi dietro ci sono le pedane e se non sei tra la campagna. Infatti ci sono le pedane, no, ci metto una lamiera, io ci metto una lamiera grande dietro, ho avuto che quando esce il pallino non si fa in campagna dei lastri, se no la ammazzi. No, ci sono le pedane con pezzi di fogli di mazzolite da tre, i ripiani di marmi fissi, di cintruzzolati. No, si crashano a voglia che bruci. Se gli avevi sono i pedali in legno, no, non ci arriva. No, non c'è che punta, ci arriva. Già si bloccano i lì, sono lontani. Infatti, no, se lo tiro verso la casetta dove c'è la baracca in lamiera che ci sono gli attrezzi, sotto una tettoia. Tiro lì e andare alla baracca saranno 25 metri, 20-25 metri, non di più. E da quando in faglia si chiude la iana della baracca, mi sente boom, mi fate spacchicciata. Anche io dove tiro io poi dietro quella catassa lì c'è il coso del maiale e il pollaio che è più alto e già arrivi lì che mi finisci capi di uno si colpassa tutto prima e dopo c'è anche la porta della mia e l'intendi ting mica mi pongo lì barugusi a chi c'è la cosa è meglio non si dice. Un attimo, Bacchi, ok dai, io chiudo, vai, saluto, per cui, ciao Tore, ciao Luca, ciao Bacchise, ciao Graziano, buon proseguimento, a domani se coincide, saluto in famiglia e ci sentiamo, ciao, chiudo, vai Graziano. Ciao Gio Maria, buonasera, buon tutto, e adesso chiudo anche io, stato nell'ultimo anche io. Ok, a domani c'è il coincide. Ciao Bacchino, chiudo là. Ciao Tore, ciao che è in ascolto. A domani se Dio ci vuole, se no, avvedessi, vai tu. Sì, ok, ciao grazie, ci sentiamo. Ciao Gio Maria, a domani. Ok, riprendi Bacchi. Ciao Gio Maria, buona serata, buona quella X. Buona cena, a domani. Ciao Graziano, io anche per te, salutissimi, buon ancora X, buon ancora reticolo, ok? Buona carica, a domani Graziano, ciao, buonanotte. Ciao, a domani, ciao a tutti. E allora, signor Bacchi? Signor Bacchisio? Ehi. Va bene, dai, anch'io passo in quella X perché mi preparo, li merenderò. Ci sentiamo tu, ciao, stammi bene, salutissimi, a domani, bye bye. Sì, ok, ciao Bacchi, a domani, da. Ciao Tore, Gio Maria, Graziano e Bacchiso, buonanotte, buonasera, ciao. Ciao Luca, a domani. Ah, vero. Ciao Fabio. Attento, Germano. E io. Ebbè. Tutto a posto? Tutto a posto, niente d'ordine, sì. Ciao Lucia, mi rientrando. Rientrando? Ero al campo. dopo lavoro, sono andato a prendere a Gabriele e sono entrato adesso. Sì, amico, andiamo a cenare. Alla doccia, sì. Sì, ya. Andare. Beh, anch'io adesso mi faccio la doccia e poi mi organizzo a fare qualche cosetta. Ah, non si lavora, adesso domani devi lavorare. Vabbè, non sai, un po' di odori giusto per la notte. Ma cosa sei influenzato, sì? Un po', mal di gola, là. Lei è l'assistente. Va bene, dai, che mi organizzo. Ci si riascolta, ciao, divertitela. Non t'ho copiato, sì, sono passato. Perché me lo messo la portante, quindi non sono passato. Ho detto, va bene, divertitela, ciao, ci sentiamo. Ah, ciao, sì, alla prossima allora, dai. Buona dolce, buona cena, ciao.